Siamo con Eliana Montanari, che è la titolare e la fondatrice della scuola di tango più antica di Roma, via Macerata, nel quartiere Pigneto, a organizzare attraverso questa conversazione i temi salienti di un discorso storico sulla immigrazione italiana in Argentina e sull'uso del tango come formula di espressione della vera anima della migrazione, per tentare poi di costruire insieme qualcosa che attraverso la storia e il ballo ci faccia capire di più il fenomeno della migrazione che oggi l'Italia sta vivendo. I risultati di questo lavoro potrete poi vederli il 5 luglio in una sorta appunto di lezione culturale multimediale con la partecipazione delle persone libro al Drugstore Gallery in via Portuense a Roma. E successivamente vi ripeterò questo appuntamento. Ascoltiamo. Perché la gente emigra? Il Sì, i perché dell'emigrazione, perché dell'emigrazione? Tu hai messo in evidenza la fame, la miseria, la necessità, no? no? Sì. Parlerai anche del sogno, cioè di quello che uno si immagina che debba essere poi. Perché uno emigra? Sono la causa. La speranza, sì. Ok, quindi si aspetta un posto migliore, si Sicuramente sì, aspetta. certo. E perché l'Argentina? Beh, l'Argentina tiene presente perché anche c'era una politica da parte dell'Argentina che favoriva l'immigrazione, perché l'Argentina aveva all'epoca 1 milione di abitanti su un territorio vastissimo, enorme, no? Quindi questi che volevano far sviluppare un paese, come lo fai sviluppare se non c'è manodopera, se non c'è nessuno che coltiva i terreni, che lavora? Quindi loro avevano necessità, bisogno proprio del lasso di braccia, diciamo così, no? Quindi loro fanno proprio una politica che incentiva l'immigrazione. Dall'altra parte in Italia c'è una politica, ecco esatto, che in qualche modo incentiva l'emigrazione. Perché? Perché c'era la fame, perché c'erano paura di tensioni sociali, paura di rivolte, quindi capito, era proprio un'valvola di sfogo. Per cui, cioè, non so dove ho letto una frase di Giolitti stesso che dice: imparate le lingue e andatevene. Capito? C'era cioè, il governo li incentivava, quindi questi ovviamente che dovevano fare? Cioè gli veniva offerta una soluzione alla miseria, la soluzione alla miseria è che te ne vai. Allora, la soluzione Capito? cosiddetta alla miseria, che era solo una andatevene, colpiva fondamentalmente in Italia le fasce delle popolazioni meridionali, cioè quelle No, poi. No, inizialmente emigrano ok, al nord, dal perfetto. nord. Questi sono dati importanti, no? Perché Sì, uno pensa sempre sì, solo quei poveri sì. straccioni del sud che se ne sono andati, invece. Comincia dal nord l'emigrazione. Forse che ti devo dire, perché anche per emigrarci volevano 2 lire, se sei troppo povero non riesci anche a emigrare, per cui cominciano dal nord, dal famoso Veneto, Lombardia, eccetera, tant'è vero che il porto più importante in Italia, all'inizio Genova, dopo diventa Napoli, vero? Perché partono da lì, si convogliano diciamo in quella direzione. Per chi partiva, quindi partiva ovviamente per fame, per miseria, per necessità e perché l'Argentina era una terra promessa in questo Certo, senso. certo. Soprattutto perché l'ambizione dei contadini all'epoca era avere terra, no? E perciò l'Argentina veniva rappresentata come un luogo dove c'era una quantità di Tanta terra. terra sconfinata. Poi invece molti si fermano. Infatti, devo dire che la prima immigrazione, quella diciamo, del nord agricolo, si indirizza di più all'interno dell'Argentina. Un po' più invece si fermano in periferia quelli del sud, Ah, bella capito? questa Nella cosa. periferia, sì. Infatti, che cos'è che dà al tango, poi aggiunge al tango questo carattere malinconico, il canto, eccetera? Proprio la musicalità partenopea, napoletana, diciamo italiana, ma in senso napoletana, capito? Proprio quella, la musicalità italiana, che si può dire la musicalità napoletana, è quella che aggiunge al tango, no? Sai, se senti come cantano, certi sembrano canzoni napoletane, no? Sì, anche Poi tutti i riferimenti nel lessico che nel dicevi tu, che lessico, sì, rimangono. e poi le canzoni napoletane, cioè dell'immigrazione, no? Sono quelle la musica che influenza maggiormente. Quindi loro si fermano più nella periferia, a fare i manovali, a inventarsi dei mestieri. che avevano fatto in patria o che non l'avevano fatti, diciamo, come dire, una mentalità forse no, mentre quello del nord cercava in qualche modo di andare a fare quello che sapeva fare. Se faceva il vignaiolo cercava di andare, infatti a Mendoza, in quelle zone lì hanno piantato Esportavano tutti i vigni, conoscenza. esportavano conoscenze, quindi andavano a fare quello perché aveva lavorato il grano, andava a fare quello. E loro hanno piantato proprio tutta la zona di Santa Fe a grano, sono stati gli italiani. Invece quelli del sud erano invece più, come dire, malleabili, più disponibili, ecco, a occupare questi famosi spazi che ti dicevo prima del tango, cioè laddove mancava il barbiere, che ne so, hanno tagliato 2 volte i capelli, cioè vanno a fare il barbiere, il sarto, che ne so, il manovale, ecco, mestieri che Il lavoro in gelataio, Veneto. insomma, sì, più questa creatività così, più mediterranea, no? Perché cioè, poi chi emigra prima in qualche modo attira intere comunità, perché anche la necessità. In qualche modo, quando tu ti trovi in un paese straniero, non conosci nessuno, cosa vuoi? Vuoi che qualche amico ti raggiunga? Quindi, un po' per non raccontare la verità, un po' per orgoglio, un po' per indorare la pillola, questi, capito, invitavano gli altri a venire, venite, qua si sta bene, c'è lavoro, poi magari non era vero. Quindi con questo, diciamo, un po' alimentare questo sogno anche con i racconti, con le lettere, oppure esagerando il positivo, no? E magari non raccontando le cose negative, è diventata negativa. Tu hai dati, o comunque quello che tu sai, è se in questa politica dell'immigrazione si spostavano, diciamo così, i capi famiglia o si spostavano intere famiglie? Beh, molto spesso i capi famiglia, Quindi molto lasciando spesso, in sì. Italia invece le famiglie? Lasciavano, infatti lasciavano interi paesi abitati da vecchi, da donne e da bambini. E lasciavano le mamme, lasciavano le mogli, lasciavano i figli e i padri anziani, salvo poi in molti casi a chiamarli successivamente quando magari si erano sistemati. E infatti c'è quella cosa bellissima di questo di Pirandello che racconta benissimo questo, perché poi nella letteratura ci trovi tutto, no? Questo vecchio che dice, se io fossi re, questo fa parte di l'altro figlio di Pirandello, no? Dice, se io fossi re, un vecchio dice, e sputò, se io fossi re, nemmeno la lettera farei arrivare più a Farnia da laggiù. Evviva Jaco Spina, esclamò una delle vicine. E come farebbero qua le povere mamme, senza notizie, le spose, senza aiuto? Dice, sì, ne mandano assai, brontolò il vecchio e sputò di nuovo. Le madri a far le serve, le spose vanno a mare. Ma perché i guai che trovano laggiù non li dicono nelle lettere? Solo dicono il bene e ogni lettera è per questi ragazzacci ignoranti come la chioccia. Pio, pio, pio, se li chiama e se li porta via tutti quanti. Dove sono più le braccia per lavorare le nostre terre? A Farnia ormai siamo rimasti noi, soli, vecchi, femmine e bambini. E ho la terra e me la vedo patire. Con un solo paio di braccia che posso fare? E ne partono ancora, ne partono, ne partono. Pioggia in faccia e vento alle spalle, dico io. Si rompano il collo, maledetti. Dalle novelle, no? Sì, questo cioè, dice tutto, no? La rabbia di questo vecchio che vede partire tutti quanti, i paesi si spopolano, no? Cioè, deve essere una cosa terribile, no? Per uno che rimane, che Certo. a un certo punto vedi che rimani tu, altri vecchi, se ne vanno via tutti. Dice, ma che ci sarà laggiù, no? Assomiglia questa storia, secondo te, a quello che è accaduto, va bene, in America, soprattutto con la caccia all'oro? L'idea del trovare l'oro e quindi cambiare completamente la vita, che ha modificato parecchio poi anche l'assetto delle città. Sono nate città vicino Sì, alle presunte miniere, che sia un po' un mito sempre quello della terra promessa. sì, il mito della terra promessa. Questo. Uno si stanca di lottare, no? Pensa che tu cambi il posto e allora cambia tutto, no? Pensi di non scontrarti forse sempre con gli stessi ostacoli, perché poi quando ti scontri con gli stessi ostacoli perdi forza. Forse. Tu trovi anche ostacoli dove vai, non è che è tutto liscio, ma sono diversi. Quindi hai anche rispetto all'ostacolo una creatività diversa, perché quando tu tutta la vita ti sei scontrato con le stesse difficoltà, hai trovato le stesse risposte, alla fine subentra la rassegnazione. Mentre invece quando tu vai in un altro paese, sì, magari quello che va a Scavallo ci avrà le difficoltà, non credo che sia una cosa semplice, ma è una difficoltà diversa che ti rimette in moto soluzioni diverse, a problema diverso, risposta diversa. Quindi è come che ti rifai anche una virginità come individuo, laddove hai fallito, invece di continuare a dare la testa al muro, dici vabbè, cambiamo muro, perché forse io riesco a fare qualcosa. Mm-hmm. Quindi c'è anche una voglia di riscatto, subentra, penso io, no? Mm-hmm. Quando tu cambi vita, no? Dici, no, adesso questa volta ce la faccio, e quindi trovi di fronte a una difficoltà rispetto alla quale sei più vergine. Mm-hmm. Allora il valore di uno, diciamo, di un'esperienza di cambiare posto e andare magari anche dietro un'avventura apparentemente pazza, è un po' la voglia di rinascere. Quindi è vero che l'immigrazione è un po' come morire, però è anche un po' come rinascere. Allora, è un desiderio di rinascita. Esatto, quindi questo desiderio di rinascere passa attraverso, per esempio, Benone, la grande metafora del mare. Il mare è sempre un naufragio possibile, no? Sì. Tu praticamente in qualche modo, e il mare anche rappresenta la rinascita, sì. Quindi è vero che puoi morire, ma poi se riesci a superare la vastità dell'oceano, rinascere. C'è dentro il tango l'elemento del mare come naufragio o del mare solo come separazione da una terra abbandonata? Perché tu mi dicevi un'espressione molto bella prima, il tango nel concetto del tempo parla di quello che hai lasciato, sì. No? Però nel tango la parola mare c'è spesso e quindi mi chiedevo, questo mare poi come appunto sì. Simbolo di rinascita ma anche di caduta, perché la rinascita sì. Si fa sempre attraverso una caduta, può rappresentare anche questo grande tema, pensavo anche biblicamente, no? Il Mar Rosso che si apre, sì, sì. Cioè tutto ciò che è esodo passa attraverso il mare, sì. Indipendentemente dal fatto che uno potrebbe pure sì. Attraversare le terre, sì, no? Sì. E quindi la terra come terra promessa e il mare come condizione di passaggio. Nei testi del tango c'è questa dimensione? Io penso che nei testi di tango che citano esplicitamente il mare è più quell'elemento che separa. Il tango non parla della rinascita. Il tango è come se a un certo momento l'orologio si fosse fermato alla partenza, alla separazione. Bello. Mm-hmm. È come che non offre una elaborazione. È proprio un lamento. È un lutto continuo. È proprio un lamento il tango. Mm-hmm. Non c'è questo passaggio da ok, abbiamo fatto questo, però adesso siamo rinati, adesso io guardo al futuro. No, il tango è la musica, veramente, nei testi e nella musica che guarda al passato. Quindi è una espressività corporea della nostalgia. Sì, sì. Il tango nasce da una voglia di sperimentare, una necessità di sperimentare. Attraverso questo che dicevo, radicamento al pavimento, no? Questa ricerca di installarsi in un luogo, di in qualche modo appropriarsene, di farselo proprio. Nello stesso tempo la dinamica che ha il tango del movimento, no? Che è quello un po' di andarsi a trovare lo spazio, di sgusciare da una parte a un'altra, questi improvvisi cambi di direzione, repentini. Perché comunque no, l'atteggiamento dell'emigrante va in una direzione, capisce che è sbagliata, deve essere pronto a intraprendere una direzione, ma essere pronto anche a tornare indietro. Quindi le pause, le sospensioni, no? I cambi di fronte, perché continuamente viene richiesta questa interazione con l'ambiente da parte dell'emigrante, che non ha nessuna certezza, quindi sta lì, sperimenta, no? Prova. Poi questo discorso di andare con l'asse verso l'altro, e questo praticamente testimonia la necessità dell'incontro, perché poi alla fine qual era l'approdo finale di tutta questa situazione? Andarsi a incontrare con gli altri. Quindi questo asse in qualche modo, no, che si mette in comune, proteso uno verso l'altro. Quindi corporalmente esprime questo. Quindi dove nel corpo, quindi vorrei in qualche modo far vedere, no, parlare come si traduce nel corpo quelle che sono istanze del, diciamo, del cuore, no? Istanze dell'interiorità, dei sentimenti. Quindi questo ha fatto il tango, ha fatto questo, come dire, miracolo, no? Di di creare un'identità in corpo, perché le necessità, le emergenze, le urgenze di quella gente erano queste: installarsi, trovare un posto, radicarsi, incontrarsi con l'altro. Questo l'hanno fatto attraverso un ballo. E può essere anche che il passo strusciato è anche il fatto di non sapere cosa c'è dopo? Certamente, di non lasciare il pavimento. Perché io immagino me, no? Al buio. Non tendo ad alzare il piede da terra. Certo. Tendo sì, a sempre a non perderlo mai. A non perderlo mai, a certo. procedere per esempio certo. in asse. Sì. Difficile che sì. prendo e vado in diagonale, per dire, no? Cioè cerco comunque di creare, ecco, come dici tu, sì. prima un cerchio protettivo e di tastare il terreno esatto. a continuazione. Infatti, verissimo, infatti noi usiamo una metafora quando spieghiamo come si cammina nel tango a lezione e facciamo l'esempio del funambolo che cammina sulla corda, che prima di mettere il peso, infatti nel tango tu, per esempio già nella milonga questo si fa, però la milonga aveva meno influenza emigratoria europea, infatti è diverso, perché nella milonga si mette il peso di colpo. Invece nel tango il passaggio del peso è sempre che io allungo il piede, sento che c'è il pavimento, una volta che sento passo il peso. Come il funambolo sulla corda, che fa? No? Va lungo la corda, poi la corda c'è, adesso faccio il passo, adesso trasferisco il peso, questo fa. E tutto il ballo quasi sviluppa lungo questa direttiva. Anche quando il tango prende un'altra forma, cioè non è una camminata, sembra una figura o sembra un giro, in realtà è sempre il giro, te lo faccio vedere. Allora, se io faccio un giro intorno all'uomo, no? Sembra che sia un giro, in realtà sono tutti segmenti, sono tutti, io faccio, per, se c'è un uomo col centro, adesso metto qua, mettiti tu qua, aspetta, io per girarti intorno faccio sì. questo, faccio un passo avanti, no? Un sì. passo avanti, giro il bacino, un passo laterale, giro il bacino, un passo indietro, giro il bacino, un passo laterale, giro il bacino, quindi tutto il tango si risolve in questo. Io nel tango o vado avanti con questa, o vado indietro, o vado di lato, o vado di lato. Quindi posso andare avanti, indietro, di lato, con la sinistra. Avanti, laterale, di là, scusa, avanti, laterale, indietro, con la destra. Questo è il, come dire, il nucleo, la cellula. Quindi è molto semplice, c'è anche questo, che è proprio elementare, ma poi diventa complicato. Perché tutto quello che faccio da questo momento in poi, se io faccio un occhio, cosiddetto, no? Adesso qua il pavimento non è buono, le scarpe nemmeno, però l'occhio è una cosa che ha questo andamento, no? Dice, ah, facciamo un occhio, tanti sì. spiegano, facciamo. L'occhio è un camminare avanti, solo che io invece di andare avanti così, col bacino sempre dritto, vado, giro il bacino, vado a sinistra, giro il bacino, vado a destra, giro il bacino, vado a sinistra, cioè, ma sto sempre camminando in avanti. L'unica cosa è che se giro intorno, faccio un giro intorno, quello che gira è il bacino. Vado avanti, poi per girare intorno faccio giro il bacino, faccio un laterale. Giro il bacino, vado indietro, giro il bacino laterale. E questo è sempre il giro che fa la donna intorno all'uomo. Quindi è uno spazio sempre ristretto comunque. È un po' come il discorso di prima, cioè sì. struscio per non perdere mai il contatto. Mi muovo, come tu dici, nelle quattro direzioni, ma costruendo sempre in qualche modo un'area protetta. Sì, e poi sempre intorno all'uomo. L'uomo intorno alla donna è l'uomo intorno, cioè viceversa. Sì. Capito? Sì. Sì, il cerchio è molto. È proprio un cilindro e tutto avviene lì dentro. Infatti si dice che, vabbè, chi ci ha fatto le teorie sopra, c'è un cilindro che non deve essere mai perforato. Quindi, capito? Tutto deve essere compatto qui dentro. Sì. La sperimentazione dell'asse del corpo è quello che dicevi prima, cioè il fatto che comunque con questa tensione contrapposta. Sì. Ci aiutiamo reciprocamente, sì. ma nello stesso tempo nessuno si abbandona mai all'altro. Cioè non è un ballo di abbandono poi alla fine, è un'interazione continua con l'altro, nello stesso tempo è vero che è fatto di aperture, però l'identità di fondo, che può essere poi l'identità nostalgica, è quella che ti mantiene sul tuo asse. Sì. Cioè tu devi comunque mantenere il tuo pensiero triste sì. per poi costruire con l'altro l'apertura possibile. Sì. Ma rimango sempre, cioè sì, non sono. Non c'è una fusione. Non c'è una fusione, no, assolutamente. Sono due identità. Due identità. Okay. Che creano un. Infatti si vede proprio nella duplicità, no? Ho detto, il busto che deve stare molto stabile, la solennità che ti sì, per permettere, quindi è sì. un ballo duplice, un ballo sì. Quindi in realtà non è vero che la solennità è la tragicità, è questa dimensione dell'abitare fortemente il pensiero che muove il tango. Sì, di no? starci. Di starci, questa sensazione di ci starci, devi stare. Ci devi stare. Tutt'altro che un ballo di sballo, di abbandono, di... Cioè il tango c'ha un doppio registro, c'ha un registro ritmico e un registro melodico. Mm-hmm. A volte prevale l'uno, a volte prevale l'altro e tu hai la libertà. Nel tango di ballare o il ritmo o la melodia, salti al registro che vuoi tu. E infatti il tango è anche in questo senso un esercizio di libertà, perché è una danza che non ti costringe a nessuno schema, sei completamente libero quando tu la balli. Devi stare nel tempo, se fai una sospensione è logico, poi quando appoggi devi di nuovo appoggiare sul tempo, però tu ti vuoi fermare, vuoi lasciare passare i tre tempi, non hai quell'obbligo come altri balli, che tu devi ballare a tutti i tempi dall'inizio alla fine. Mm-hmm. Puoi raddoppiare, puoi sdoppiare, puoi sospendere. Puoi fermarti. Puoi fermarti, la libertà di fermarti. Che è quello che dicevi prima, è l'interazione continua con l'ambiente. Sì. Quindi in questo caso io sì. creo rispetto all'ambiente la postura dove sì. quello che mi rende più sicuro. Reagire, no? Quindi sì. reagire all'ambiente vuol dire anche potersi fermare. Sì. Non c'è un copione. Quello che succede dipende anche chi c'è, che incontro, come ballo con l'altro, quale registro mi sento di più con quella mm-hmm. persona, mm-hmm. come interpreto quella musica. Mm-hmm. È bellissimo. I testi delle canzoni, diciamo di questo tango che stiamo evidenziando come il tango, appunto come il ballo dell'emigrante, delle migrazioni. Sì. Raccontano l'emigrazione? Guarda, alcuni tanghi sì, fanno riferimento, raccontano l'emigrazione, parlano del paese lontano, del quartiere perduto, del viaggio, del mare, qualcuno sì, però moltissimi no, però parlano sempre di qualcosa di perduto, mm-hmm. l'amore perduto, l'amicizia perduta, l'angolo di quella determinata strada, quel torrentello che non c'è più, quel prato che non c'è più, quella donna che non c'è più, o la gioventù che non c'è più. Sempre sulla perdita, quindi sì. la nostalgia è sulla perdita, la separazione. Anche il disincanto spesso, canta il tango. Un tango bellissimo, Gira Gira, che dice che tu... che a volte tu quando cerchi un amico, no? Dice, a volte si seccano, perché evidentemente prima i campanelli erano a pila, allora dice, si seccano le pile del campanello, ma nessuno ti risponde, no? Quando hai bisogno non c'è nessuno. Mm-hmm. Anche quando affronta qualche tema sociale, diciamo, lo affronta in questi termini, è il mondo che si è corrotto, è uno sguardo incantato. Sì, perché secondo me questa scelta poi di leggere, di dire, insomma, di imparare i testi dei tanghi può essere sì. bella, anche perché non si conoscono no. tra l'altro, no? No. Quindi una letteratura proprio che manca come patrimonio. Sì. Questo per esempio dice Gira Gira, dice, quando la fortuna, che è femmina, ti verrà meno e ti lascerà impalato, quando sarai sul lastrico, senza meta e disperato, quando non avrai fiducia né fondi vecchi di mate. Mate è una bevanda, un tè argentino, fondi del caffè, insomma. Quando non avrai nemmeno questi fondi di mate asciugandosi al sole, quando spaccherai le suole in cerca del soldo che ti faccia mangiare, l'indifferenza del mondo è sordo e muto, allora sentirai. Vedrai che tutto è menzogna, vedrai che niente è amore, che al mondo nulla, al mondo nada le importa. Gira, gira, così dice. Quando ti spezzerà la vita, quando ti morderà il dolore, non aspetterai un aiuto, né una mano, né un favore. Quando si saranno seccate le batterie di tutti i campanelli che premerai cercando un petto fraterno su cui morire abbracciato, quando ti lasceranno per terra dopo che hai faticato come è successo a me, quando capirai che accanto a te la gente si prova i vestiti che lascerai, ricorderai questo scemo che un giorno sfinito si è messo ad ammalare. Bellissimo questo testo.